Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 29 maggio 2015. Colture idroponiche nelle terre aride. Basta un quinto dell'acqua. La svolta è arrivata grazie alla diffusione dei sistemi di coltura fuori suolo, promossi in diverse aree desertiche o semidesertiche, tanto dalle organizzazioni internazionali come la FAO, quanto dalle ONG. I risultati fanno parlare di una vera e propria fioritura che sta restituendo alla vita fette significative di terreno, con possibili effetti alla lunga anche sul microclima. Le colture idroponiche semplificate, in particolare, si sono diffuse in diverse zone abitate come alternativa più efficiente rispetto ai tradizionali orti delle oasi. Con piccoli sistemi di controllo temporizzato dell'irrigazione e grazie al recupero delle acque, si è notevolmente ridotto l'impegno dei contadini, limitato ad un quinto il consumo di acqua e si è raddoppiata la produzione. Fin qui la notizia del 29 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Le possibilità delle colture idroponiche nelle parole di Giorgio Prosdocimi Gianquinto, docente di orticoltura all'Università degli Studi di Bologna. Negli ambienti caldi, nei ambienti tropicali, si consuma il 20% dell'acqua per unità di superficie per metro quadro che si consuma normalmente con un orto a terra, quindi sono sistemi che vanno benissimo anche in quelle località, in quegli ambienti, in quei contesti dove la disponibilità d'acqua non è il massimo, insomma, il punto forte. Ecco, ultimamente abbiamo fatto un progetto in collaborazione con una ONG importante, Tartesom Italia, abbiamo portato avanti un progetto in Mauritania, utilizzando questi sistemi di coltivazione idroponica siamo riusciti a ottenere delle produzioni orticole, delle insalate meravigliose in un'oasi, in mezzo al deserto, dove io credo che queste persone non abbiano mai avuto l'opportunità di ottenere produzioni così. Quindi in mezzo a queste dune di sabbia, vedere questi orti con queste insalate è uno spettacolo, sinceramente. Tutto questo con un consumo di acqua molto ridotto rispetto al... Con un consumo d'acqua ridotto. Noi abbiamo fatto proprio degli esperimenti, abbiamo visto che consumiamo il 20% d'acqua rispetto a una coltura tradizionale a terra. Cioè, se ci servono 100 litri per metro quadro in un orto tradizionale, dati con l'annaffiatoio, eccetera, eccetera, con sistemi di questo tipo a ciclo chiuso, quindi riutilizzando l'acqua che non viene assorbita dalle piante, quindi raccogliendo l'acqua drenata, utilizziamo invece che 100 litri 20 litri. Ecco, tenendo conto che tra l'altro in un metro quadro coltiviamo più piante rispetto all'orto a terra. Quanto riguarda la lattuga, a terra riusciamo a coltivare 10-12 piante per metro quadro, con questi sistemi ne possiamo coltivare il doppio, 20, 24, 25. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.